Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Ricorderete, cari amici, che alcuni giorni fa noi abbiamo avuto ospite Salvatore Bottone, sindaco facente funzioni del comune di Pagani, in provincia di Salerno. Che cosa è accaduto? Perché lo abbiamo avuto ospite? Perché in quel comune c'è stata una fortissima polemica sulla mancata intitolazione di una piazza, Piazza Corpo di Cristo di Pagani, alla memoria di Marcello Torre. Chi era Marcello Torre? Era un avvocato, sindaco di Pagani, che fu ucciso l'11 dicembre 1980 da due killer della nuova camorra organizzata. Ebbene, questa piazza è diventata un po' la piazza della discordia anziché della concordia, nel nome di un caduto innocente vittima della mafia, perché prima era stata promessa con tanto di inaugurazione formale, poi è stata revocata l'intitolazione. Il sindaco ci ha detto: ma c'è stato un grosso misunderstanding, una grossa incomprensione, in realtà noi non l'abbiamo promessa, in realtà c'è già uno stadio di Pagani intitolato alla memoria di Marcello Torre. Non abbiamo intitolato quella piazza perché la popolazione non lo voleva, abbiamo intitolato una via e soltanto la famiglia si è un po' lamentata. Allora, noi abbiamo, devo dire con molto piacere, ricevuto una mail dalla figlia del sindaco Marcello Torre ucciso dalla camorra, Anna Maria Torre, che giustamente vuole dire la sua. Buongiorno Anna Maria Torre. Buongiorno. Allora, io direi proprio di partire da quest'ultimo fatto, cioè il sindaco facente funzioni Bottone dice: no, ma in realtà Pagani è tutto d'accordo, soltanto la famiglia non è d'accordo ad intitolare questa piazza. Come stanno le cose? Allora, per onestà mentale, io volevo soprattutto chiarire una cosa, che la famiglia è stata investita due mesi prima, un mese e mezzo prima, dalla volontà dell'amministrazione a voler fare la piazza in memoria di papà. Quindi venne il sindaco sospeso di Pagani, Alberigo Gambino, presso casa di mamma, ad esprimere la volontà dell'amministrazione comunale. E la volontà era per quella piazza? La volontà noi non la conoscevamo, nella misura in cui io penso, e non lo penso solamente io, ma la decisione della scelta della toponomastica di qualsiasi paese non lo può decidere una famiglia, bensì un'amministrazione comunale. Per cui noi non abbiamo voluto fare polemiche, però ci siamo trovati nelle polemiche fino al punto di arrivare alla fine a un comunicato stampa nel quale abbiamo chiesto, dopo la revoca della delibera, dopo la futura e prossima nuova strada, che anche lì si stavano succedendo nuove polemiche, perché via Gustavo Trotta doveva essere divisa in metà, è la strada dove io sono vissuto con la mia famiglia, con papà, con mamma e con mio fratello, e dove papà aveva lo studio anche. Quindi anche lì polemiche, insomma. Anche lì polemiche. Allora, ma perché queste polemiche? Non è che perché magari siamo anche sotto campagna elettorale in quel paese? Non lo so, non potrebbe essere come non potrebbe essere. Certo è che la memoria di un martire della Repubblica, un uomo, un padre, un sindaco, è stato esposto in una maniera così, diciamo, subnormale per me. Certo, ecco, ma mentre... Poi, per rispondere, senza sempre fare polemiche, lo stadio Marcello Torre, lo stadio comunale, è stato intitolato alla memoria di papà dopo un anno, perché Forse non molti si ricordano, ma il mio papà è stato anche presidente della Paganese, non solo, faceva parte della giustizia sportiva dell'allora della Lega Nazionale sì, Calcio. Sì, sì, sì, esatto. Per cui all'indomani, dopo un anno, si è voluto, insieme anche alla Lega Nazionale Calcio, fare l'intestazione dello Stato. Quindi, insomma, una volontà relativa da questo punto di vista da parte dell'amministrazione comunale, diciamo una cosa ma quasi. L'amministrazione comunale, ecco. Stiamo parlando del 1981. Certo, quasi logica. Ecco, ma mentre Pagani litiga, i comuni di Praiano e addirittura di Valdelsa stanno pensando invece di rendere omaggio alla memoria di suo papà. Stanno lavorando per il comune di Praiano, sta praticamente scegliendo e decidendo quale strada o piazza intitolare alla memoria di papà. E la stessa cosa sta facendo Valdelsa. Valdelsa a giorni dovrebbero dare notizia dell'iter per un'onorificenza, non per una strada, ma per un riconoscimento alla certo. memoria. Benissimo, allora io la ringrazio. Volevo dire solo un'ultima cosa. Velocissimo, perché siamo in conclusione. Velocissimamente, la cosa più importante è che noi abbiamo voluto anche placare gli animi come famiglia, perché papà innanzitutto era un uomo della Fuci e dell'Azione Cattolica. Nessuno mai l'ha voluto anteporre al di sopra di Gesù. Ha fatto benissimo a ricordare questa cosa. Siamo soltanto esseri umani, terreni, e dobbiamo rendercene conto. Grazie ad Anna Maria Torre, figlia di Marcello Torre, sindaco di Pagani, ucciso dalla Camorra nel 1980, a Peter Bescapè in regia e a Laura Faggin in studio, Roberto Carullo vi auguro una buona giornata.